No, non rappresento il ministro degli esteri, diciamo io sino al 2008 rappresentavo il governo italiano invece come vice ministro degli esteri. Però insomma sono sicuro che su queste tematiche lo Stato italiano, questo governo esprime tutta la sensibilità insomma, possibile. Mi hanno chiesto di incominciare, io avrei dovuto fare una introduzione, ma come vedete qui non c'è ancora nessuno, arriveranno. Allora perché stai lì? Vieni. Eccoci. Ciao. Vieni, erano lì, pronti. Quindi possiamo iniziare sul serio, poi aspettiamo gli altri che arriveranno. Sono in macchina, come ci hanno detto. E vabbè, per dire che cosa? Per dire che per me questo incontro è particolarmente significativo. Significativo perché nella mia attività sia politica sia istituzionale, il Cile è stato sempre molto presente nella mia esistenza, da quando eravamo giovani. Io sono stato uno dei primi che organizzò un concerto degli Intillimani in Italia, addirittura, ecco. Anni fa. E molti anni fa, in uno stadio di Lecce pieno, sino, insomma, sold out, tutto esaurito. E poi, vabbè, ma questo. Noi giovani di allora eravamo molto attenti ai temi dei diritti umani, dei diritti dei popoli e quindi il Cile e quindi l'Argentina e quindi il Nicaragua, l'Uruguay e quindi gli indiani americani, quelli che stavano nelle riserve e quindi i curdi, questa anche sino a tempi molto recenti e quindi il Sudafrica. Prima e dopo la fine dell'apartheid e ancora, e spero per poco tempo, ma ho molti dubbi in proposito, la Palestina e i diritti del popolo palestinese. Il Cile quindi è stato un paese molto presente nella storia personale del sottoscritto. Sia politica sia in anni successivi anche di natura istituzionale. Istituzionale perché andai all'insediamento con D'Alema del presidente Lagos. Ho firmato un accordo di partenariato strategico tra l'Italia e il Cile. Accordo di partenariato strategico che vuol dire molto in termini di sostegno non solo politico. Abbiamo molto lavorato come governo italiano e questo si sa poco in un'attività di democratizzazione delle forze armate cilene, in particolare dei Carabineros, su forte sollecitazione di Isabel Allende, che all'epoca ci spingeva a sviluppare azioni per democratizzare questa arma militare. È stato anche il Cile il mio viaggio aereo più stressante, perché ero impegnato in Italia in attività molto delicate e mi chiesero di andare a Santiago e non potevo andarci perché c'erano delle scadenze straordinari, sino a quando mi telefonò Isabella Allende e disse devi venire. E quindi Roma-Madrid, Madrid-Santiago del Cile, una rapida doccia e la sbarbatura in ambasciata, la presenza sulla Piazza della Moneda all'inaugurazione della statua di Salvador Allende. E 3 ore dopo ritornavo in Italia. Quindi 40 ore di volo, insomma, a rischio infarto, però è una di quelle, diciamo, fatiche che si fanno volentieri, simbolica quanto vogliamo, la statua di Salvador Allende, ma era una simbologia di grande importanza. E ancora il Cile è presente, diciamo, in questa mia storia, vi sto raccontando un po' quella che è una parte della mia storia. Quando ho finito la prima esperienza al Ministero degli Esteri nel 2001, ho salutato gli ambasciatori, i miei collaboratori, in maniera un po' diversa, come normalmente si è abituati a fare. Ho pubblicato un volume, questo qui purtroppo mi è rimasta l'ultima copia, stampando delle fotografie inedite, c'è anche la prefazione di Isabella Allende, delle fotografie inedite della attività straordinaria fatta all'epoca dall'ambasciata italiana a Santiago del Cile, che ospitò migliaia di rifugiati cileni che saltavano i cancelli per ritrovarsi lì. E sono foto straordinarie che dimostrano l'impegno dei nostri diplomatici nell'ambasciata a Santiago del Cile, a differenza invece di alcune grosse lacune che si manifestarono da parte di importanti nostri rappresentanti nell'ambasciata invece a Buenos Aires. Uno spaccato di una vita all'epoca e di un impegno del governo italiano straordinario. Adesso poi lo farò girare così qualcuno potrà vederlo. Sono foto significative. Queste erano ad esempio le pistole che l'ambasciatore italiano raccoglieva da tutti quelli che entravano dentro e se le teneva in camera da letto per evitare problemi. E poi tante altre vicende, insomma, il battesimo all'interno dell'ambasciata, la messa all'interno dell'ambasciata, e alla fine della messa, la cosa simpatica, è che gran parte saluta con i pugni chiusi la fine della cerimonia religiosa. Ecco, se volete anche da... Cantavano l'internazionale. Probabilmente cantavano anche l'internazionale. Quindi un'attività, diciamo, personale, per quel che può valere l'intreccio con il Cile, istituzionale, perché il governo italiano in quella occasione, i nostri diplomatici nell'ambasciata di Santiago svolsero un compito umanitario e non solo umanitario, molto importante, riuscendo a salvare molte vite umane, facendoli espatriare, mettendoli anche con gravi rischi personali a forza sugli aerei. Quindi un'attività di grande rilievo anche dal punto di vista istituzionale. E da qualche tempo siamo finalmente riusciti ad arrivare, per quanto riguarda ancora una volta l'impegno italiano, al processo Condor, un processo importante perché esula da quella che è una dimensione semplicemente di violazione di diritti umani, di omicidi, per assumere una valenza di analisi quantomeno storica e anche giudiziaria su un contesto, il Plan Condor, che ha risvolti che credo siano più o meno da tutti conosciuti. Io ho seguito, costituendo il governo italiano parte civile e svolgendo un intenso lavoro di recupero di documentazione probatoria, ho dato un forte impulso al processo che si è concluso con la condanna all'ergastolo del generale Suarez Mason davanti alla Corte d'Assise di Roma nel 2007, mi pare, 2008, per il sequestro e l'uccisione di un certo numero di cittadini italiani durante gli anni della dittatura in Argentina. Quindi c'è stato questo precedente, sempre a Rebibbia, nell'aula cosiddetta bunker di Rebibbia, questo processo contro alcuni esponenti della dittatura argentina, alcuni militari, più importante appunto il generale Suarez Mason, con una condanna poi definitivamente confermata. Plan Condor ha una valenza forse ancora più importante del processo Suarez Mason, perché appunto è riferito ad una realtà ben più vasta, che travalica quello che è il dato di un singolo Stato, come fu nel caso appunto precedente relativo all'Argentina, e affronta invece in una dimensione di analisi geopolitica, storica, giudiziaria, una strategia politica messa in atto, elaborata a tavolino, sviluppata in quegli anni per contrastare che cosa? Per contrastare essenzialmente l'avanzata di democrazia, di domanda di democrazia, di domanda di autogoverno, di domanda di uguaglianza sociale, di domanda di sviluppo economico in tutti questi paesi. Splendidamente, naturalmente, non posso fare a meno di omettere la citazione, splendidamente richiamato e ricostruito da Edoardo Galeano nel suo libro più famoso, Le vene aperte dell'America Latina. E questa è un po' la situazione in cui si colloca appunto il processo Condor. Chiaramente aspettiamo poi gli avvocati, Jorge, eccetera, ci diranno anche l'evoluzione dal punto di vista giudiziario di questo processo. Però io volevo assolutamente esserci oggi perché mi hanno detto saranno presenti alcuni uomini della scorta del Presidente. E allora, siccome io considero degli eroi coloro che scortavano il Presidente, sia gli amici del Presidente, insomma, nella versione, sia gli altri, diciamo, nella veste istituzionale, era per me doveroso essere qui. Doveroso perché, insomma, ci vuole fegato, ci voleva fegato in quegli anni per decidere, in un contesto politico che aveva già evidenziato tutti i segnali di quello che poi fu l'avvento del regime di Pinochet, ci voleva fegato, coraggio, determinazione, eroismo in definitiva, a dire io sto qui sino alla fine a combattere per la democrazia, per tutelare nel caso cileno la libera espressione elettorale del popolo cileno. Perché in Cile Allende fu eletto democraticamente e quindi, diciamo, un sentito riconoscimento, un ringraziamento a questi uomini che hanno vissuto quelle giornate, quell'ultimo giorno, quelle circostanze drammatiche che poi sono per noi diventate storia, insegnamento e lezione anche di vita. La mia introduzione l'ho fatta, io a questo punto darei la parola a chi? A te, come volete. Anche là, all'aula Bunker, ho dovuto incominciare. È un onore, ma è anche una responsabilità grandissima. Bene, io sono la moglie di Juan José Montillo Murúa, cittadino italiano cileno. Lui ha formato parte del gruppo di amici personali, conosciuto così, il dispositivo di sicurezza presidenziale di Salvador Allende. Come fu questo? Il Partito Socialista, al quale lui apparteneva, ha deciso che lui era una delle persone che doveva formare parte a questo dispositivo, perché aveva la formazione politica, ideologica, ma anche aveva una formazione militare, perché tutti quanti dovevano portare un'arma, una pistola o che so io. Bene, e fu chiamato dunque dalla direzione del partito e fu domandato se voleva partecipare. Lui ha detto di sì. Ma questo è successo due giorni prima che nascesse il mio primo figlio. Così fu una notizia fortissima per me, perché quando lui mi disse questo era una decisione che lui già aveva preso. Non c'era possibilità alcuna di dare un piede dietro. No, lui aveva detto sì, e anche se io non ero d'accordo, lui entrava lo stesso. Cioè, da quel momento in poi io sono ho vissuto un tempo di quasi due anni, sì, di incertezza, di paura, di nervosismo, perché sapevo che il lavoro, che questi ragazzi erano tutti giovani, e che questi ragazzi facevano, era proprio mettersi davanti al corpo del presidente per proteggerlo. Cioè, qualsiasi giorno chiamavano per telefono e mi dicevano: sai, tuo marito è morto. Lo sapevo. Bene, io non volevo vivere questo, ma la storia è così. Così è. E poi un anno dopo è venuta a questo mondo la mia figlia, che si trova lì, Tamara, e in questo tempo è venuto in Cile Fidel Castro. In questo tempo del suo governo, Allende ha fatto un viaggio internazionale, ha fatto uno prima per l'America Latina, dove ha visitato Messico, Perù, Argentina, diversi paesi. E l'anno seguente ha fatto un altro giro, ma questa volta è andato in Nazioni Unite. C'è un famoso discorso che lui ha fatto lì. Poi è andato nella Unione Sovietica, Argelia, non ricordo più, che erano 4 o 5 paesi. Bene. Al ritorno, quando sono venuti in Cile, è stato selezionato, eletto, per andare a fare un corso speciale in Cuba. Altri ragazzi anche sono andati, 3 mesi o qualcosa così, di una istruzione specialissima. Non solo nel lavoro delle armi, questo già lo sapeva perché lui aveva fatto il servizio militare, ma era si riferiva alla strategia di combattimento, perché sempre si pensò che se Allende era attaccato, se era costretto a difendersi, sarebbe in una forma più umana, diciamolo, no? E da questo lato i ragazzi del GAP e da quell'altro militari probabilmente, ma si pensava che sarebbe una cosa più bilanciata. Non si mai pensò che i militari farebbero un bombardamento del palazzo di governo, era una cosa che non si poteva pensare mica. E quindi quando l'11 settembre viene il bombardamento con persone dentro, il presidente, i suoi assessori politici, che erano di diverse parti, di diversi partiti politici e diverse professioni, c'erano medici, c'erano periodisti, c'era moltissima gente diversa che facevano da consiglieri di lui, più i poliziotti della polizia civile cilena, che erano stati eletti anche, si aveva fatto uno studio, e queste persone potevano lavorare col presidente. E poi c'era questo dispositivo di sicurezza formato da giovani socialisti, e un totale di 40 persone, un po' meno chissà, erano all'interno della moneta quando fu bombardata. Durante quasi 8 ore hanno combattuto un esercito regolare con degli aerei che passarono diverse volte sul palazzo di governo, mandando i missili dentro, provocando un incendio terribile, e di fronte al palazzo di governo, per la porta norte, che è un palazzo che ha una forma, occupa quasi tutto un quartiere, per la porta norte, che è l'entrata principale del palazzo, si misero in posizione di attaccare dei tanchi, come si dice? Ecco, e fecero molto danno fisico al palazzo, distrussero la porta, che era una cosa bellissima, e poi l'incendio fu terribile. E per fare ancora più spaventoso questo, mandarono dei gas lacrimogeni dentro, cioè l'aria era irrespirabile con l'incendio, con i gas, con un buco enorme che hanno fatto nel tetto del palazzo, e sempre col temore di, in qualsiasi momento entravano i militari dentro. Cioè è stata una cosa orrorosa. Bene, tutti nessuno andò dietro. Quando il presidente le disse che quello che voleva andare via lo poteva fare, nessuno se ne andò via. Ecco, sono arrivati due dei compagni del GAP, Juan Oces e Julio Tapia. Beh, scusa, Julio Soto. Non so dove sono i nomi di loro. Siedi qua. Soto? Sì, Julio Soto. Non vuole essere qua. Bene. Loro possono raccontare questa esperienza personale. Io non sono stata all'interno del palazzo, dunque quello che vi racconto è quello che ho ascoltato da loro. Bene, questo fu perciò un momento difficilissimo. Quando arrivarono i militari e li mandarono via, li hanno fatto prigionieri, fu una cosa terribile. Anche lei non è il nome? Vieni, amore. Bene, poi quello che viene dopo fu una cosa davvero terribile. Incominciò una delle dittature più violente, più assassine dell'America Latina. Per una popolazione cilena che in quel momento era di molta meno gente che quella che abbiamo adesso, che siamo 17-18 milioni di persone, in quel momento eravamo 7 milioni, mi sembra, 7-8 milioni, era moltissimo meno, ma il senso che avevamo noi in quel momento era che sembrava che volessero ammazzare tutti. Ogni giorno si sapeva di una persona meno. In ogni quartiere, in ogni luogo del paese, si domandava qualsiasi. Sì, il mio fratello, sì, il vicino mio, sì, il mio cugino. C'era molta gente che aveva gente assassinata o scomparsa. Bene, i nostri compagni sono stati portati nel Tacna, che era un luogo di un reggimento, una caserma militare, 2 giorni nei quali li hanno interrogati, li hanno torturati tutti quanti, e il 13 settembre li portarono in un luogo che si trova al nord di Santiago, in un comune che si chiama Colina, e in quel luogo c'è un sito, un luogo abbastanza arido, dove i militari fanno i suoi esercizi, dove fanno la sua preparazione fisica. Una parte di questo luogo era il Fuerte Arteaga, dove facevano i suoi movimenti, il suo insegnamento ai soldati, il reggimento Tacna. E lì sono stati fucilati. E poi non solo li hanno fucilati, ma hanno tirato dentro delle granate, munizione, che li hanno spezzato e se ne sono andati via. Ma noi non sapevamo niente di questo, sapevamo che erano stati portati al Tacna e poi non si sapeva più che cosa era successo. Durante molti anni circolavano delle notizie. Perché questo aveva sentito quell'altro che diceva che così era tutto extraufficiale. Fino al. Anche se noi, i familiari, eravamo andati nella vicaria della solidarietà che si era formata al riguardo del cardinale Enriquez, Raúl Enriquez. Silva Enriquez, ecco, Silva Enriquez. Bene, lui ha accolto tutte le richieste dei familiari. Lui ha incominciato proprio questo lavoro e avevano molta informazione. Dunque, quando i tribunali cileni decisero di ascoltare i familiari, si hanno appoggiato molto in questa informazione che aveva la vicaria. Infatti, questo è stato la prima investigazione, il primo documento storico che c'era di quello che era accaduto nel mio paese. La vicaria aveva fatto un lavoro investigativo importantissimo. Quando finì il governo tra virgolette di Pinochet e incominciò la democrazia, si aprirono le porte per andare a fare tutte le testimonianze possibili e incominciò un incrociamento di informazioni e noi in quel momento abbiamo avuto l'opportunità di conoscere l'identità, vera identità dei nostri compagni, i quali conoscevamo con i nomi politici, perché era importantissimo che loro non si conoscessero col suo vero nome, perché se qualcuno era preso, era fatto prigioniero, diceva, che so io, come si chiama questo? E davano il nome, era il nome politico. Loro non sapevano uno dove viveva l'altro, non sapevano niente della loro famiglia, non sapevano niente della loro vita. Dunque, la possibilità di dare ai militari un'informazione che li servisse per prenderli e farli prigionieri era abbastanza bassa. Ma quando si aprì questa investigazione nella vicaria, noi incominciamo a conoscere la vera identità dei nostri compagni. Ci mostravano una fotografia e noi dicevamo il nome politico col quale noi conoscevamo i compagni. E ci dicevano: no, non si chiama così, si chiama, e c'era il nome vero. Incominciamo a trovarci le vedove tra virgolette, perché sapevamo che erano morti, ma non c'era un documento che ci facesse vedove. Le spose degli spariti ci dicevano diversi nomi. E Abbiamo da quel momento imparato un po' dei nostri compagni, ma della loro vita reale, cioè di se avevano figli, se erano soli, diciamo non erano sposati, chi era la madre, chi era tutta la famiglia. Questa conoscenza delle loro identità solo ci servì a noi per sapere chi erano, ma i tribunali ancora non erano totalmente convinti di fare questa investigazione. Dobbiamo avuto ancora un po' di pazienza per aspettare il momento in cui i tribunali incominciarono a ricevere queste richieste di giustizia, fu un momento in cui si presentò una e fu come una pallina di neve che incomincia a scendere per la montagna e finisce essendo un grandissimo pallone. Così la gente incominciò ad arrivare ai tribunali e a mettere le sue richieste e i giudici incominciarono il suo lavoro. Ma questo lavoro fino ad ora non ha avuto il risultato che noi avremmo voluto, perché anche se si sanno i nomi di alcuni di questi responsabili della morte, dell'assassinato e poi lo sparimento dei nostri compagni perché sono stati spariti per diversi anni, loro hanno fatto il suo lavoro, hanno ricevuto la informazione che aveva la vicaria, più altre organizzazioni che avevano fatto la propria investigazione. Questo si sa, ma non ci sono condanne. Fino ad ora, sì. I nomi delle persone che sono state condannate sono sempre gli stessi, ma sono stati condannati non per il caso della moneta, cioè dei compagni che erano con Allende l'11 settembre, sono stati fatti prigionieri loro per altri assassinati, per altre cose che hanno fatto. E sono sempre gli stessi, Manuel Contreras, Pedro Espinosa, Marchenko, ma questo è perché erano la cupola della DINA, della Direzione di Intelligenza Nazionale, che aveva fatto tanti, tanti morti e tante persone che erano stati fatti prigionieri politici, che non hanno morto, ma che hanno subito di queste persone una tortura terribile. E dunque, per questo, queste persone sono andate in prigione, ma non per la moneta, non per i nostri morti. Cioè, noi ancora aspettiamo che si faccia giustizia. Per questo giudizio che ancora non ha responsabili e che non ha condannati e che si trova nel limbo, in qualche senso, non si è potuto camminare per avere un risultato. Non so, si sente una sensazione di che le richieste nostre entrano per un'orecchia e escono per l'altra, fino ad ora anche. Si parla con i giudici, quelli che hanno un po' di disposizione a ascoltare, e loro dicono: beh, però così è la giustizia cilena. Si è fatto in Cile una riforma, una nuova maniera di fare giustizia, ma tutti questi casi della moneta si trovano nel sistema antico. Il sistema antico Si entra un caso in corte, può essere 20 anni prima di aversi un risultato. Cioè, chissà saremo tutti noi morti e non avremo una risposta adeguata. Speriamo che no, perché si hanno fatto delle investigazioni scientifiche e dei pochi resti che so io, un pezzo di ossa o alcuni denti o un pezzo come si chiama? Mandibola o alcune vertebre, che tutto questo si è trovato a Peldegue. E si hanno potuto riconoscere alcuni dei nostri compagni. Si sa che erano lì, si sa che sono morti. Alle mogli si è consegnato un certificato, sono dichiarate legalmente vedove, ma quelle che non abbiamo avuto questo risultato siamo ancora in un punto morto, perché dopo l'informe Rettig, la commissione che si è formata nel governo del primo presidente democratico dopo la dittatura, Patrizio Elwin, si è formata una commissione che investigava tutto questo. E il presidente di quella commissione era un signore di cognome Rettig, cioè questa commissione si conosce popolarmente come la commissione Rettig. E questa commissione si è convinta di varie cose, di diverse cose, per esempio che queste persone che erano state fatte prigioniere, che sono state portate al Tacna, che poi da lì sono andate 2 giorni dopo nel Forte Arteaga, fucilati lì, pertanto sono morte, e questa commissione ha fatto un pronunciamento al governo e ha detto che queste persone devono ricevere una specie di risparmio economico per aver perso il marito, e noi riceviamo tutte le spose delle mogli di questi ragazzi, e riceviamo una pensione che si consegna normalmente una pensione alla vedova di un certo personaggio che muore. Cioè, questa commissione ci considera vedove, invece il governo cileno ci considera sposate. Cioè, io ricevo una pensione da vedova, ma sono legalmente ancora la sposa, la moglie di Juan José Montilio Murúa. È una cosa strana. E mentre lui non sia dichiarato morto, sia che si possa dichiarare scientificamente che lui era lì, e che pertanto è morto, sia che il giudice lo dichiari perché non c'è più investigazione da fare, e se sono arrivate nel Forte Arteaga 15 persone, per mettere un esempio, e sono state riconosciute 13 e quelle altre due no, ma il peso di tutta questa investigazione fa un convincimento, come si dice, sono convinti giudizialmente che queste persone sono tutte morte. E cioè in quel momento è possibile che noi avremo una certificazione che ci dica che siamo vedove, una cosa abbastanza stupida. Io sono convinta che sono una vedova, anche se il governo, se i tribunali non me lo dicono. Ma per alcune cose è importante avere questo, e se non lo abbiamo, ci sono delle cose che noi possiamo fare. E, bene, non importa molto questo, ma se uno lo pensa un po', è una cosa troppo strana, troppo... per esempio, quando io venivo in Italia, dovevo fare certa tramitazione, mi chiedono qual è il suo stato civile. E io ho dovuto dire, sono sposata. Sono sposata, ma di chi sono sposata? Da una persona che è morta fa più di 40 anni. Sono sposata, ma non sono sposata. È una cosa strana. Bene. Noi abbiamo avuto abbastanza pazienza in Cile per avere una risposta, e la risposta sembra che non riesce mai a venire fuori. Perciò sentiamo che questo giudizio che si sta svolgendo adesso nell'aula bunker di Rebibbia ci possa dare questa risposta che abbiamo cercato da tanti anni. Speriamo che sia anche un riferimento per la giustizia cilena, per fare investigazioni più complete, più che sì. Abbiamo molte aspettative di questo giudizio. Diritto all'identità. Buonasera, presento, sono Jorge Turmuru e volevo fare un po' il giro del tavolo, credo che non l'avete fatto ascoltare tutti perché penso di arrivarci adesso, e vi racconto che cosa è brevemente che cosa è successo oggi alla Punta di Rebibbia. Oggi ci sono stati quattro deposizioni. Oggi sono stati quattro deposizioni, hanno deposto quattro persone nell'ordine. Rina Belvedresi, moglie del Papa Simontiglio, ha deposto dalle 10 alle 12 e mezzo a luna. Tamara Montiglio, figlia di Montiglio, Papa Simontiglio, detto Naigar Anibal, come parlavano di Anibal, ha deposto per un quarto d'ora portando le fotografie del Forte Arteaga dove è stato ucciso il papà. Poi hanno dichiarato le persone che erano con lui alla Moneda, e hanno dichiarato prima il signor Julio Soto, che è un membro del GAP, del gruppo di amigos del presidente, che è la scorta formata da militanti del Partito Socialista Cileno, la scorta personale di Salvador Allende, che stava era l'autista lui. Sì, lui era l'autista personale di Allende, ma era comunque parte di questa scorta, che vivevano con lui, che lo accompagnavano, che era un gruppo abbastanza nutrito. C'erano cinque comandanti, uno era Beatriz Allende, la figlia, uno dei cinque comandanti dell'unità operativa era Montiglio. Lui è l'autista che l'ha portato l'11 settembre alla Moneda, poi è andato a parcheggiare, poi quando inizia l'attacco ci ha raccontato come ha cercato di difendere la Moneda salendo davanti dove c'è il Ministero dei Lavori Pubblici, a un 15° piano, e lì sparava. Erano in otto a sparare contro le forze che stavano attaccando la Moneda. Dopo ha deposto Juan Oces, che era dentro la Moneda con Allende, e che ci ha raccontato del bombardamento, ci ha raccontato tutto quello che è accaduto, le volte che ha parlato col presidente, il presidente quando ha parlato gli hanno telefonato i militari. Anche prima di andare il presidente, che lui le ha detto che come finisce, lui il presidente Allende ha detto che la Moneda non si doveva lasciare, perché era un simbolo per il popolo, che bisognava resistere almeno 24 ore, fino a che il popolo si sarebbe alzato. E ci ha raccontato tutto fino a che le sono finite le pallottole, e poi è finito arrestato con gli altri GAP che lì c'erano e con la polizia. Quelli che c'erano alla Moneda erano tre tipi di persone. Uno erano i GAP, che era la scorta di Allende, due era la polizia investigativa cilena, cioè la polizia di Stato, il servizio scorte, di cui è parte Luis Mario Enríquez, i GAP sono Julio Sotto e Juan José Beltrán, e il terzo gruppo erano gli infermieri e i consulenti politici e privati del Presidente. Questi erano i tre gruppi di persone che sono stati poi portati al reggimento Tacna, come ci hanno raccontato. I poliziotti sono stati liberati il giorno dopo, i GAP, molti consulenti sono stati fucilati a Forte Arteaga, come è stato in pratica ricostruito. Domani deve deporre Luis Mario Enríquez, che ha avuto una doppia veste, perché lui è stato poliziotto con Allende alla Moneda. Poi, quando l'hanno liberato, ha ripreso servizio in polizia, l'hanno destinato al nord per tutta la dittatura, poi è tornato all'ufficio affari interni della polizia investigativa con un altro poliziotto che era anche lui alla Moneda, Gallego Stoll, e l'hanno incaricato dell'ufficio affari interni del Dipartimento V, affari interni della polizia. E in quella veste lui realizzò un'indagine sulla Moneda, sentendo tutti i soldati di leva nel 94, ricostruendo tutta la vicenda, per cui ha una doppia veste Luis Mario Enríquez. Con noi anche l'avvocato di parte civile di Rina Belvederesi, che è l'avvocato Salerni, che è anche avvocato dell'Associazione dei Familiari dei Detenuti Desaparecidos del Cile. Questo brevemente, non so se Tamara vuoi dire qualcosa. Facciamo nell'ordine delle deposizioni di oggi, come andiamo in juicio, andiamo come andiamo in juicio. Tamara. Bene. Io non posso parlare da mio babbo se non è dai racconti che mi hanno fatto la mamma e i familiari, perché io ero molto piccola quando è venuto l'11 settembre, non avevo ancora 2 anni. E ho saputo tutta la verità io quando avevo 16 anni, nel contesto del plebiscito del sì e del no, quando finiva il governo di Pinochet. Quindi da quel momento in poi ha cominciato la mia ricerca e la mia conoscenza di mio papà. È stato molto, molto duro sapere il destino finale, svolti i fatti, sì. Ma adesso siamo qui, come ha detto la mamma, con voglia di che si faccia giustizia, forse prima di quello che sarà nel proprio Cile. Non so che più dire. Yo no hablo italiano. Vediamo come. No, non serve. Basta essere corto, no? Habla fuerte y cortito y no. Ok. Mi nombre es Julio Sotto. Ok. Mi nombre es Julio Sotto. Pertenecí a la escolta y al equipo de seguridad del presidente. El día 11 lo acompañé a La Moneda, estuve con él, igual que Juan. Somos 2 sobrevivientes. Mi función el día 11 fue defender La Moneda desde el edificio al costado de La Moneda, un edificio alto. La Moneda es baja, el otro edificio. Y desde ahí, junto a 7 compañeros más, es decir, 8, organizamos la defensa de La Moneda. para resumirles, resistimos más o menos 6-8 embestidas del ejército, no por prácticamente por ese sector de Morandé, de donde está el ministerio, no pudieron pasar. Nuestros compañeros del interior de La Moneda defendían la otra parte hacia Agustinas y hacia el Hotel Carrera, que está al otro lado. Nuestra misión fue tratar de evitar la toma de La Moneda, pero al no poder el ejército tomar La Moneda con los militares, entonces enviaron la aviación a bombardear La Moneda. Y ese enfrentamiento fue muy desigual, porque es muy difícil desde la posición nuestra combatir a los aviones. Nosotros estábamos aquí y los aviones pasaban así. Y es imposible darle. Es imposible. A las tropas era más fácil, porque estaban ahí, avanzaban con tanques, camiones, y era más fácil darles. Fue una experiencia quizás muy importante, es bueno que ustedes lo sepan. El interior de La Moneda y nosotros convertidos en francotiradores, resistimos, como decía, cerca de 8 horas, lo que es un fiasco para el ejército. Éramos 26 compañeros más o menos en el interior combatiendo y nosotros 8 fuera. Resistirle a tantas horas a un ejército de tierra y aire, un grupo tan pequeño, realmente es, desde el punto de vista militar, es una hazaña. No hay, por lo menos dentro de todo lo que yo he leído, que un presidente resista tantas horas a un ejército de tierra y aire. Y nosotros lo hicimos. Quedamos algunos vivos para contar esta historia. En resumen, somos parte de esa resistencia, seguimos nuestra lucha, hemos pagado un costo muy alto, nos mataron a todo el resto de los compañeros, los detuvieron en La Moneda, los llevaron a un regimiento, después los mataron, los hicieron desaparecer. Pero lo hemos encontrado, y lo hemos encontrado dentro de un territorio militar, destrozado, así hemos encontrado los huesitos de nuestro compañero, donde los mataron, y gracias hoy día a la tecnología del ADN, hemos podido identificarlo, después de más de 40 años. Esa ha sido nuestra labor como sobreviviente. Muchas gracias, estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Mi nombre es Juan Oces Beltrán. Como mi compañero Julio, yo también fui miembro del dispositivo de seguridad presidencial llamado GAP. Y en ese lugar, en esa misión, asumimos la defensa de La Moneda junto a nuestro compañero presidente. La verdad que hace como un par de horas me tocó relatar todo lo que sucedió entre La Moneda, cómo defendimos, cómo aguantamos el bombardeo, el intento de salir con el presidente, cruzar hacia Obras Públicas para salir después a Bandera e irnos a la zona sur donde está el aparato militar del Partido Socialista, todas esas cosas hasta nuestra caída. el traslado al regimiento Tacna, el comienzo de sacar a compañeros nuestros de nuestra dirección, cómo se los llevaron en un tiempo determinado, hasta que al final, cómo 4 o 5 de nosotros logramos salvarnos, manteniéndonos en el Tacna, y cómo vimos nosotros cuando a nuestros compañeros se les ofrece un café y un pan, para después y les dicen, los vamos a ir matando. También, después nuestro periplo con los sobrevivientes, fuimos al Estadio Chile, de ahí nos trasladaron al Estadio Nacional, ya estábamos nosotros sin documentación, por toque queda, decíamos nosotros, y fuimos liberados en un grupo de 100 personas. Eso nos duró más o menos 15 días, porque después ya sabían que nos habíamos filtrado y nos habíamos escapado, y empezó la búsqueda nuestra. De ahí yo perdí a mis compañeros de vista, y a mí se me ordenó el Comité Central del Partido Socialista de asilarme, y fue un acto muy doloroso partir asilado hacia Alemania. Situación compleja para mí, porque después se me solicitó la extradición. Estuve clandestino en la República Federal Alemana, hasta que pasé clandestino arrancando hacia la República Democrática Alemana. Bueno, ahí estuve alrededor de 10 años, me formé profesionalmente, soy profesor y doctor en ciencias del deporte, y también me formé en otras áreas, porque nuestro, digamos, dentro de esto, de lo que nos dejó, para nosotros, y en lo personal para mí, el compromiso con mis compañeros de haber quedado vivo, era seguir luchando contra la dictadura. Y habíamos entendido claramente que si nosotros no sabíamos usar correctamente la estrategia y la táctica del uso de las armas, íbamos a ser derrotados. Y con otros compañeros tomamos ese rumbo. Tomamos el rumbo de la lucha armada contra la dictadura e empezamos a ingresar a Chile. Yo ingreso a comienzo del 84, fin del 83, y me integro a la lucha contra la dictadura. Todo esto con el pensamiento siempre de mis compañeros, o sea, no era posible quedarme sin hacer nada y mis compañeros detenidos desaparecidos y que habían entregado sus vidas. Eso significó que en esa lucha que tuvimos dura acá en Chile el año 84, caí preso nuevamente el 85, una escuela de guerrilla. Nos torturaron, murió un gran compañero al lado mío, Carlos Godoy. Tuvimos preso 2 años y medio en la cárcel de Valparaíso, hasta que al final una negociación con la República Federal Alemana, nuevamente, con Hamburgo, nos expulsan del país. Pero estaba nuestro compromiso, o sea, la democracia no había llegado ni pensaba llegar, y nosotros... Y aquí yo encuentro una coherencia con lo que está sucediendo. Que estemos hoy día en Italia luchando para que exista verdad y justicia en nuestro país y en el mundo entero. Y la verdad que la alternativa que nosotros nos planteamos era el derrocamiento de la dictadura bajo otras condiciones. Pero sí también entendimos que en un momento determinado, el año 86... antes que se le diera el golpe al tirano, que sobrevivió, estando en la cárcel de Valparaíso, nos dimos cuenta que comenzaba a cambiar el periodo y se había iniciado una etapa de negociación impulsada por Estados Unidos, y donde adhirió la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, y después se crea el PPD y se integra en ese proceso de negociación. Nosotros sabíamos de que una salida de ese tipo no iba a permitir una democracia plena en nuestro país. Desgraciadamente la historia nos ha dado la razón. El haber adoptado posteriormente Bueno, como les digo, después yo ingresé, volví a ingresar a Chile en el 88 y me metí en toda la lucha nuevamente ahora en términos de semiclandestinidad que estábamos nosotros y nos fuimos legalizando todos los cuadros militares. Pero nos dimos cuenta también que venía la gran negociación y donde nosotros quedábamos fuera. Porque habíamos, yo concuerdo que nosotros habíamos sido derrotados, pero que esta salida iba a conllevar para esta incipiente democracia costos muy grandes en los tiempos. Yo soy profesor y en la educación ha sido así. Los costos de nuestra educación han sido terribles. Los costos en investigar las violaciones de los derechos humanos, aunque yo rescato y respeto todo lo que se ha hecho al respecto, ha sido frenado por las leyes de amarre que quedaron con la dictadura basada en la constitución que generó Pinochet. Entonces llevamos 40 y tantos años después del golpe, llevamos 20 años de concertación, llevamos después 4 años con Piñera, y recién ahora, la compañera Bachelet gana ofreciendo cambios estructurales. Pero eso sucede porque el 2011 los estudiantes y parte de nuestro pueblo se volcó a las calles. Yo estuve en esa, yo soy director, era director del Colegio Francisco de Miranda, un colegio de izquierda emblemático en nuestra patria. Y nos hicimos todas esas protestas, nos gasearon, nos mojaron, nos pegaron, pero se logró crear un movimiento social que desgraciadamente todavía carecía de madurez direccional. Y se suma a eso también del desacrédito de los partidos políticos, del tanto de la izquierda como de la democracia cristiana, bueno, y ni hablar de la derecha. Entonces, claro, nos encontramos ahora que Michel toma parte de las discusiones de nuestros muchachos y del pueblo que se genera y se plantea recién cambios estructurales que tiendan a cambiar el sistema dentro del marco de una sociedad capitalista, ¿ya? Pero cambios estructurales, bueno, ustedes saben lo que ha costado eso, lo difícil que ha sido al respecto, ¿ya? Y lo peligroso que es la situación en estos momentos, cuando no existen partidos políticos, el movimiento social está en sus casas y hay un desconocimiento del pueblo, digo pueblo, yo no quiero decir gente como dicen ahora, hay un desconocimiento del pueblo de las dirigencias políticas y de los partidos. Entonces estamos en un problema. La única factibilidad es que Michel se empodere nuevamente y que pueda asumir, cierto, el rumbo en el cual se había planteado y cuyo eje central tiene que ver con la nueva constitución de nuestro país. Una nueva constitución gestada democráticamente a través de una asamblea constituyente donde participe todo el pueblo, evidentemente va a cambiar las condiciones y no vamos a tener estas situaciones, ¿cierto?, de que violadores de los derechos humanos cueste tanto encontrarlos, cueste tanto sacarlos de sus madrigueras para poderlos juzgar. Es por eso que yo agradezco a Italia el hecho de que acá en este país se realice un juicio para esclarecer no solamente el tema de nuestro compañero Montillo, sino de la Operación Cóndor, que afecta a compañeros que lucharon en América Latina por la libertad. Y también agradezco que en momentos duros de nuestra historia, Italia recibió a muchos compañeros exiliados, les tendió la mano solidaria, y eso hay que agradecerlo. Esa es mi opinión en estos momentos. Muchas gracias. Mi participación, distinguidas damas y señores, es breve. Mi nombre es Luis Enrique Seguiel. Yo soy un policía jubilado, ya pensionado, que trabajé durante 37 años en la Policía de Investigaciones, que tuve vivencias como haber estado ese día 11 de septiembre cumpliendo con mi deber profesional en el Palacio Presidencial de la Moneda. de haber permanecido en esa institución, no obstante las dificultades, y haber tenido el privilegio de poder, a contar de la llegada de la democracia a mi país, de poder investigar los casos de violaciones de derechos humanos. Tenía una vivencia real, conocía lo que había ocurrido y era parte del silencio que existía en mi país. Y cuando tuve la posibilidad de poder contribuir con un granito de arena, lo hice. Mi rol dentro de la policía y mi sensibilidad con el tema de los derechos humanos me llevó precisamente a trabajar activamente para Naciones Unidas en distintos países de América del Sur, contribuir a un manual de procedimientos policiales que permitiera que los policías respetaran los derechos humanos. Ello no ocurre por distintos factores, pero apuntamos a un deber ser, a un código deontológico que pretende humanizar los procedimientos, una dificultad constante, pero por lo menos que a la tranquilidad que desde la perspectiva del testigo privilegiado de haber visto cómo se violaron los derechos de las personas, ha podido contribuir con un pequeño aporte. Hoy en día, espero mañana colaborar con la justicia italiana en el sentido de entregar mi versión de los hechos acontecidos con el compañero Montiglio, Aníbal, para mí, que es una vivencia poder compartir con su viuda, con su hija, en un tema que está pendiente todavía en la justicia chilena. No hay muchas cosas que hacer todavía, han pasado varias décadas. Efectivamente, no se ha hecho todo lo que correspondía, se ha hecho todo en la medida de lo posible. Se ha avanzado, no lo suficiente. Queda mucho por hacer, es el gran desafío para las futuras generaciones, de poder concretar en el futuro la tarea que dejamos pendiente. Muchas gracias. Velocissimo perché siamo tutti stanchi. Oggi abbiamo fatto 5 ore di deposizioni, in realtà, tra interruzioni ed altro, e oggi c'è stata la dimostrazione, ci sono alcune giornate nella storia che le possiamo far rivivere, che non finiscono mai, che non si possono dimenticare. Non sono solo la giornata più importante della loro vita, ma sono stata una giornata, l'11 settembre del 73, una giornata che ha segnato non solo la storia del Cile o dell'America Latina, ma credo di tutto il mondo, cioè lo scontro tra la democrazia, i tentativi di cambiamento, la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, trovano in quella giornata, è un fatto paradossale, incredibile, dentro quel giorno, quell'11 settembre. Oggi potevamo continuare all'infinito, domani continueremo ancora a parlare di quell'11 settembre, di che cosa succede quando Julio arriva in macchina col presidente, col dottore, lo porta dentro il Palazzo della Moneda, però già capisce che c'è la Marina che si sta muovendo, che è il giorno del colpo di Stato, che è il giorno decisivo, finale di un'esperienza, ma quell'esperienza non è finita. Oggi l'abbiamo vissuta, ha accompagnato i nostri anni, i tanti anni di noi che abbiamo fatto politica negli anni seguenti, che intorno a quell'11 settembre c'erano le contrapposizioni, chi era da una parte e chi era dall'altra, chi era per il cambiamento, chi era per il progresso, è una di quelle date importanti e decisive. E dentro quella data, oggi dobbiamo dirlo, c'erano due figure meravigliose che spiccavano, una era quella del dottore, del presidente di Salvatore Allende, una figura che c'è stata tratteggiata con affetto ma anche con il rispetto di una grandezza, di un'importanza storica, di un peso del capo del Partito Socialista Cileno, di questo Partito Socialista uguale a tanti partiti socialisti, ma diverso anche da tanti altri partiti socialisti nel mondo. Il Partito Socialista Cileno e il Partito Socialista di Allende ha una grandezza che non è solo quella del suo capo, ma quella dei suoi militanti, di quelli che abbiamo visto oggi, e poi la figura di Juan Montilla. È emersa oggi, io mi sono approcciato a questo processo difendendo un ragazzino di 24 anni. Oggi ho capito che stiamo difendendo la figura di un gigante, di una persona importantissima nella storia di quel paese e nella storia del nostro paese, della nostra storia politica. Una storia. Oggi per la prima volta mi sono accorto, diciamo, no, non è la prima volta, ma insomma fortemente, che dentro quell'aula, quel processo, non c'era l'arido discorso della giustizia, il dover fare rientrare tutto dentro la testimonianza, il colpevole, il fatto. Sì, tutti quanti ci muovevamo dentro quello schema, ma poi la forza, la storia, la forza, la vita e questa figura di Juan Montillo sono emerse prepotentemente, sono andate oltre anche gli schemi dei giudici, dei pubblici ministeri, di noi avvocati, tutti grigi che stiamo lì sempre a rifare le stesse cose, lì dentro è emersa e è stata una giornata importantissima. Noi ringraziamo voi per avercela fatta vivere. Io credo che la giustizia italiana ha fatto un grande passo e l'abbiamo costruito insieme. Io ringrazio Orghe perché ha fatto un lavoro incredibile in questi anni, ma la Procura di Roma perché, nonostante i tempi, perché se la giustizia è lunga nel vostro paese, nel nostro è lunghissima, non è che è veloce, insomma, qui abbiamo iniziato nel 99, non è. Però oggi abbiamo vissuto una giornata importante. Questa giornata, io non so come finirà il processo, però dimostra che la violazione dei diritti umani, i crimini contro l'umanità, a un certo punto li processiamo, li portiamo davanti alla sbarra, cercheremo i colpevoli, andremo avanti e la figura di quelle che non sono le vittime, ma sono i vincitori di quella storia, emergono con grande forza, con grande prepotenza, con le vostre parole, con la storia di Julio, di Juan, con la fortuna che ha avuto Juan a salvarsi, perché ci ha raccontato come è riuscito adesso a scambiarsi con altre persone, con la lezione più importante che ci ha dato Julio. Guardate che quando un aereo golpista attacca non dovete sparargli di lato, ma davanti. Scusate, in questo processo noi siamo una piccola associazione, 24 marzo, e in questo processo ricopriamo diversi ruoli. C'è una nostra socia, Lilia Di Monte, che fa le fotografie ai processi, una fotografa nostra, sono altri amici che stanno facendo un documentario. C'è un'altra socia, Carolina Di Monte, che è la sorella di Lilia, che è stata assunta dalla Procura della Repubblica per leggere le deposizioni dei testi assenti o defunti. Carolina in verità fa l'attrice, ma legge meglio dei pubblici ministeri, per quello abbiamo chiesto. C'è un altro nostro amico Fabio che leggerà le deposizioni domani dei testi defunti o assenti, ma volevo chiedere a Fabio di leggere due brani che una persona ha scritto sul papà di Lilia e di Carolina, che è un nostro socio, Piero Di Monte, e su un'altra socia nostra, Aurora Meloni, di cui anche si sta celebrando qui il dibattimento per l'omicidio del marito. Sono due nostri soci di 24 marzo, volevo che Fabio leggesse quello che ha scritto su di loro Edoardo Galeani, di cui adesso si stanno celebrando in questo momento i funerali. Voi mi perdonerete, io non faccio l'attore. È aperto? Non credo. Allora, il primo ve lo leggo in spagnolo perché fare la traduzione al volo è un po' complicato. Si intitola El viaje. El sol se está escondiendo tras los cipreses cuando Aurora llega al cementerio de San Antonio de Areco. La han llamado. Necesitamos el lugar. Se muere mucha gente, usted comprenda. Y un funcionario le dice: mucho gusto, señora. Son 300 pesos. Aquí tiene. y le entrega los huesos dentro de una bolsa de esas que se usan para echar la basura. En un automóvil negro y enorme, Aurora Meloni se lleva los huesos. El chofer, vestido de negro, desde la gorra hasta los zapatos, maneja el silencio. Ella agradece ese silencio. No mira la bolsa de plástico negro, mira al mundo, que corre al otro lado de la ventanilla. En un descampado, unos muchachos juegan al fútbol. Aurora no soporta esa alevosa felicidad. Da vuelta a la cara. Mira la nuca del chofer, no mira la bolsa, que viaja en el suelo apretada en sus piernas. Dentro de esta bolsa, ¿quién está? Aquel muchacho que vendía con ella queso casero y dulce de leche en las ferias de los barrios de Montevideo. Aquel que con ella enredado dormía. ¿Por qué nadie les avisó que todo iba a durar tan poco? ¿Dónde están las palabras que no se dijeron? Las cosas que no hicieron. ¿Dónde están? Muchos años han pasado, 17 años o 20 o 100. El oficial que había arrancado a Daniel de su cama a puñetazos sigue estando donde antes estaba. Los hombres armados hasta los dientes que acompañaban al oficial también siguen estando y siguen armados hasta los dientes. Y Daniel, en esta bolsa de plástico, está Daniel, aquel que amenazaba con cambiar el mundo y fue arrojado a la vera de un camino como este, con 36 agujeros en el cuerpo. Y ella, en este automóvil de nunca acabar, este fúnebre adefesio de alquiler, está ella. ¿Es ella la mujer que se muerde los labios y siente agujitas en los ojos? ¿Será esto un automóvil? ¿O será aquel tren fantasma que alguna vez se escapó de la vía, con ella adentro, y se la llevó a ninguna parte? Aurora quisiera llorar. Quisiera llorarse, pero tiene la cara reseca y a su lado viaja la bolsa de plástico negro cerrada con un nudo. Il prossimo più breve è in italiano. Devo dirti una cosa. Oscar Liniera fu un altro delle migliaia di ragazzi scomparsi in Argentina. In linguaggio militare fu trasferito. Piero Di Monte, imprigionato nella stessa caserma, udì le sue ultime parole. Devo dirti una cosa, sai, io non ho mai fatto l'amore e adesso muoio senza sapere di che si tratta. Domande, interventi, volete dire qualcosa? Se no ci salutiamo, abbiamo pensato ci saranno altre udienze del processo, di solito questo processo le udienze si tengono dalle 10 alle 16.30, all'ora bunker di Lidia, la prossima udienza sono fissati per il 7 e l'8 maggio, dove discuteremo un caso di Temuco, di Venturelli, e abbiamo prenotato la sala qui alla Fondazione. Per organizzare un incontro il venerdì 8 maggio alle 17.30. Lì si tratta di una. A tutto caso saranno testimoni cileni. Questo caso è un caso di un militante del MIR che si è apparecido a Temuco, a Venturelli. Poi il 14 e 15 abbiamo la repressione del Partito Comunista Cileno. Ci sarà la figlia del segretario del Partito Comunista Cileno, Viviana Diaz, e ci sarà il caso Donato, che era italiano e che è stato preso con gli altri dirigenti comunisti in casa conferenza. E da ultimo, il 28 e 29 maggio ci saranno i democristiani del MAP, del caso Maino, e lì ci saranno anche altri testimoni trasversali, come il direttore del programma di diritti umani del Ministero degli Interni cileni, o il senatore Carlos Montes, che potranno parlarci anche di aspetti più generale. E così continueremo questa collaborazione, ringraziamo la Fondazione di tutela della disponibilità. Dobbiamo dire che anche qui presso la Fondazione del Basso ci sono tutti i nostri archivi, tutti gli archivi che abbiamo avuto dalla Procura e che abbiamo avuto da altre procure, da altri stati, sono tutti qui nella fondazione, tutti i verbali e tutti i materiali del processo sono qui a disposizione nell'archivio storico della Fondazione Bassa. Grazie a tutti.